Chiamati! Rosy, mi senti? Chiamati! Dimmi, quel cazzo sei? Perché non mi tacci domani? Ehi, cazzo, in cucina ero la gente già lontano. Ma poco fa pure hai chiamato. Ma non mi ha risposto. Perché c'era gente, non potevo rispondere, si capisce? Ehi, aia, io sono sempre con Mick lì. Per carità, sale il radio per belle. Ah, ehi, vabbè. Pazzi Manu, sentito là? Pazzi Gopu, sì, su WhatsApp. Eccola con Bicchendi, Catta. Ah, va, pure il botte con Bicchendi, che mi ha mandato due baci di botte con Biccati. Luca! Mario! E a quel senso, però non ti rispondi, È poco... È delicato, sempre venire qua. Domani raga lo fa, sennò qua si piglia, sennò la polizia piglia la muffa. La muffa si piglia, noi che piglia la muffa. Arrivo subito, Gio Mari, vada a la sciacquata. Se ci sei dopo, là, tanto c'è anche il baracchino acceso. Ehi, d'accordo. Bene, e tu come ti mangi in giro? Se non è tricchia. Sì, però, Luca. Ma noi tu sì. Manuel. Tocca. Oh, Gio Mari. Ma dormito sì. Sto facendo, ciao. Senta, ascolta. Il petto del telefonino lo sai mettere? Sì, che telefono è? Dimmi la marca. Ah? Dimmi la marca del telefono. I Samsung, i Galaxy, i 4. Ma là, Gio Mari, facciamo una cosa. Mi mandi la foto del telefono su WhatsApp dove c'è scritto il modello esatto, così ti dico la spesa. No, il vetro ce l'ho già, capito? Io ce l'ho già, se me lo piaci vengo in macchina sotto casa oppure vieni tu e me lo piatti là. Allora mandami le foto del telefono, mandamele, così ti dico se è quello da incollare o è quello col biadesivo. Mandami le foto, dai, del vetro del telefono. Ascolta, ancora non lo conosco bene questo telefono, cazzo, l'ho aperto oggi, capita, per cui non so nemmeno come si fa a fare la foto, capito? E come faccio a mandarti la foto dello scavo, capito? Sopra quel cos'è ci metti il vetro che mi hanno dato lì che ci mettono, capito? Siccome il telefono è nuovo, mi hanno mandato il vetro del ricambio, no? E ce lo metti tu il vetro, non so se dai collare oppure no. Ah, il vetro di protezione, sì. Beh, se sai fare me lo fai tu, dai, invece di pagare andare là, allora te quello c'è da fare e me lo metti, dai. Non niente, già ti paghi più. Se ha cambiato vetro proprio il vetro, una minima spesa c'è, ma per quello cosa? No, stiamo scherzando, domani, diavolo. Domani un po' di impegno, se non hai fretta, Gio Mari, domani un po' di impegno, martedì lo stesso, mercoledì, siccome te sono libero, ma ci vediamo e lo facciamo, anche in garage. Vabbè, se no andiamo domani qui con mia figlia, allora aspettiamo dopo domani, va bene, per siccome mi ha detto mia figlia, dai, aspetta, lo dica a Luca, se lui non sa fare me lo faccio fare da lui. Capito, adesso devo parlare con lei e eventualmente, non lo so come fare, là. Ma tanto mi Gio Mari, nel caso che dovessi uscire, ti prendo un euro per piazzartelo, perciò io non ti prendo niente, però se in caso che se devi uscire, ci metto un attimo a piazzartelo, ti prendo un euro. Sì, non sarà quella la spesa, allora, e tanto mi devo comprare anche la... come si chiama, la foderina domani, allora me la faccio piazzare da lui direttamente. E quando ci incontriamo ci prendiamo il caffè ugualmente, lui, va bene? Sì, Giomari, per problemi non ne ho. Allora ti consiglio di andare da chi, Giomari? Da Matteo. Praticamente è quello dove c'è Lidl a Predanieta, più avanti, che ti porta per andare alla piazzetta. Tu non giri per andare alla piazzetta, vai sempre più avanti, lì te lo trovi sulla tua sinistra, c'è Matteo lì e te lo piazza lui. C'è anche tutte le custodie, ne ha tante custodie, quello c'è rimbalato dalla scelta. Matteo lì. Lì dove, nel piazzale della piazzetta? No, non devi girare per andare nel piazzale della piazzetta, vai sempre avanti e te lo trovi sulla tua sinistra. Non c'è da sbagliare, guarda che c'ha un'insegna blu o il capannone blu, se non mi ricordo. Che articolo, come insegna c'ha fuori? Sì, un'insegna blu c'ha, giusto, ma... C'è un'insegna blu, mi stava dicendo Marina. Fornito per le cose. È più fornito per le cose, vetrini, eccetera, eccetera. Come si dice? Praticamente c'è un insegna e c'è scritto Matteo, è un cinese. E allora ci passa domani, là. Tanto per andare a quelle parate devo andare anche a Rupini. Passato il centro, allora va bene. Diciamo che sì, se mi metto già la soppiazzare, solo che loro ormai hanno la mano, capito? Non ti fanno bolle né niente. A me è capitato di piazzarlo e ho fatto un pasticcio. Lo devi pulire bene bene prima, va bene, se no altrimenti si vede l'alone sotto. E loro, maledetti, cavolo, sono micidiali su queste cose. Io molte volte me l'ho piazzato, ho fatto sempre, diciamo sempre no, ma quasi, una mezza cagata, dai. E bisogna allora a uno che li fa questi lavori, capito? Sa come fare, pulire bene, sa come piazzarlo, dai. E forse è meglio così allora, dai, per non stare in tira là, capito? E per così come mi devo comprare anche la foderina, per cui domani ci passa, allora va bene lui. Giovanni, non c'è problema, ci mancherebbe. Ho visto che l'antenna l'hai sistemata, Giovanni, spero che sia la volta buona. Beh, ya lo credi. L'hai vista bella dritta. Ho visto, vabbè, me l'aveva anche lui, comunque ho vista io di passaggio. Va bene, dai. Quell'altra l'ho fatta a Luca, dai, se l'ha piazzata bella dritta, quella più grande, però non mi piaceva troppo, freccia troppo da me, capito? Sicché già va bene questa commessa adesso, e anche per i porci ce n'è. Lei ha voglia, anche la mia c'era a posto per il momento, solo che mi si è rotto il rosmetro, Giomari. Il mio, l'HP201, l'ago si è inceppato, si è proprio spezzato, si è. Andava e non si muoveva, l'ho smontato praticamente con una specie di molla, no? Non so se l'hai mai smontato, una specie di molla fatta a coso, e si è spezzata, è da buttare. Io c'ho il 200, lui, però... Non lo so, Luca dice che l'ha messa a posto, non lo so, io non l'ho più usato, per cui se ti serve basta dirmelo e fai il compito che devi fare, dopo me lo ritorni. Vabbè, non è il caso che mi serve, tanto me lo dovrò comprare perché serve sempre, capito Giovanni? Serve sempre il cose. 3 anni quello me l'aveva dato Franco, ma così punta in bianco si è rotto. Beh, io ne avevo 2 o 3, ne avevo, ne avevo tutti regalati, e l'ultimo l'avevo dato a Leoncino, l'avevo dato, certo, è bellino quella, piccolino, ma era bellino veramente. E adesso mi sono rimasti di 200 della Diamondo che mi difettava a me, però lui dice che Luca l'ha regolato, dice va bene adesso, io cosa mi cercano, ero voi, vediamo un po', se ti interessa, se funziona bene te lo prendi, se no me lo torni, capito? Me lo stavo dicendo che l'ha messo a posto, capito? Adesso vediamo, là, state già ci sentiamo Giomari, mi serve per forza. sa mai che no, no, mamma non va a chiedere le cose, poi quando la cosa è mia mi si rompe, non me ne frega niente, poi è roba degli altri. Guarda, ti faccio un esempio, mi sono un po' attrezzato su tutto, trapano, vitazzone, non chiedo niente a nessuno, perché se mi si rompe, mio marito, è mio, non mi interessa. Invece poi se si rompe che roba degli altri è una scucciatura, là. Infatti devo comprare anche la pompa che si ha preso Luca per gonfiare i materassini. Per il prossimo anno adesso ne parlerà. Ma io sono fatto così stesso, Quando una cosa si rompe, poi apprezzamelo io, magari, non è tanto facile che faccio pressare, chiedo qualche cosa, preferisco comprarmelo, perché di solito capita così, quando l'ha preso la cosa magari si sfascia, magari si può sfasciare anche con me, però quando magari una cosa l'ha preso magari si sfascia e sembra una cosa strana, capito? Per cui certe volte, cosa vuol dire? Che adesso io, se lo vuoi te lo do, lo provi, se ti va bene te lo prendi, e ci aggiustiamo per il prezzo, capito? Non è un problema, tanto a me quello non mi serve, che ne un altro, più grande pure, per cui se lo vuoi bene te lo porti via, lo provi, se ti va bene te lo prendi, sì, ho pazienza, capito? Per me non vi sono problema, lui già lo sai. Sì, a Giovanni non ci mancherebbe. Faccio un esempio, una volta ho prestato una volta, qualche anno fa, e ce l'ho, volgo bene, lo smonto, lo pulisco, l'avvitatore della macchina, l'ho prestato a questo tipo vicino a casa, che doveva fare un lavoro, nuovo, cioè tu ti prendi a battere sopra le viti, qui non è un martello, cioè io me l'ho comprato, l'ho pagato, non me l'hanno regalato, e infatti da giorno ho finito di dare per agli altri. Usalo come abitatore, non come mazzo picchiare sopra le viti. Marcello, sembra così, ma capitano anche queste cose, quando lo dai si guasta, però sa, ma uno quando lo dà magari la prima cosa che dici è che cosa l'hai fatto, capito? E rimane un po' ben preso, però penso io lo so che l'apparecchio funziona bene, poi se dovessi andare male, ma si vede, cosa vuoi fare? No? Perché devo iniziare a prendere la bassa all'asta e fare una cazzata, no? Sarebbe, non conviene, capito? Per cui io te lo sto dicendo, se ti serve, vedi, lo provi, se va bene, te lo prendi, se non va bene me lo ritorni, non ci posso dire altro. Giovanni, ci mancherebbe, sì, ma lo provo magari, ma se ce lo vi apposta, poi già non c'è problema, io già apria, non volevo passare, io volevo fare così giusti, non fa cazzati. E poi Bria, venivo il tempo, no, non è tempo di briaggio, Mari. Poi Luca se lo può dire, lui dice che l'ha provato, l'ha controllato a me, dice che a posto, dice che non ho visto problemi. Poi, ripeto, se ti serve vieni, te lo porti via a lui, se va bene te lo lascio, se no me lo restituisci, no, non ne ho problemi, capito? Voglio mio Rosmitri, No, lo so, Dio Maria, già ogni tanto compri qualcosina. No, vabbè, io quello, ma sto funzionando bene, Dio Maria. Diciamo, non è che era al 100%, però già mi segnava bene, capito? Mi farò un salto, uno di questi giorni, così vengo, lo prendo, faccio una prova, là. Così mi misuro anche questa che ho qua, come aveva costruito Luca, che sicuramente come ha preso acqua, sta andando male. No, capito. Bene. Quella cucina Luca, mi sa posto l'aveva fatta. Tutto a posto, le guarnizioni, tutto a posto. Perfetta. Meglio così, dai. Meglio così tu. Già puoi entrare, non vuole entrare. C'è cosa effetti. C'è la comichese, vuoi sono una gabbicciuglia. Come c'è la zonca. la scena. Una scena che ci lucca. Boh, mi ha da comicare, fa. Almeno non si ribiglia la mandronia. Però dimmi, io dice di bisogno, se qui mangiare, si sperimenta questa la notizia. Non ti fa, c'è tanta la dimanna, sempre in fretta, mi ha dato una stessa chissà cana, ti fa, vero è, eh? Mario! Ci va questa cosa che fa, al bacco, chissà cosa in casa si fa se si lo faccio. A chi è sempre impegnato, sempre impegnato, però se uno c'ha cosa a fare se la fa, vabbè. Vuol dire che lo faccio così e ripiazzo a fare così e cosa puoi fare? E va giù la gara, devi fare cosa, però non li posso fare e allora la posso fare l'altro. Cando un bus però la posso fare l'altro, cando no, pazienza. Ma pure io dai, già molte volte magari non ho niente da fare. Adesso con sempre pure smontelli, effetti. Tipo. Computer, adesso da poco ne ho sistemato due e sono perfetti. A me mi ha chiamato, il mio stava funzionando male, non mi dava più internet, non mi dava, e già una chita bloccato. Allora c'era mia nuora che c'ha un cugino che fa questi lavori, no, nelle scuole, e l'ha chiamato, è venuto. C'era la portata via la mattina, la sera me ha perso l'ora del pranzo e me l'ha portato e adesso sta funzionando. Solo che mi deve portare, come si chiama, quella applicazione si mette, siccome io sono collegato alla mia nuora, noi lo stesso pianerottolo, però si è chiuso due porte e non prende internet. Allora bisogna metterci quella scatoletta sulla presa, come si chiama? Ah, ho capito, c'è la cosa, c'è la tavoletta. Esatto, si attacca alla presa, capito? E allora con quella va bene, capito? Infatti me l'avevo portato. Però adesso visto che poco fa l'ho accesa e già sta funzionando. E quando sono aperte le porte funziona, ma se ne apro una sola non funziona, capito? Si vede che non prende con tutte e due le porte chiuse, capito? Vabbè, Giovanni, diciamo che l'internet vuole potenza, ma per quello che fai tu, se ti serve per andare su, cioè non devi scaricare, già va bene con la saponetta. Sì, ma poi non è che lo usi molto, no? 10 o 4 ore, tanto baizà, non è che io riesco a fare nulla, no, solo baizà e basta, così. Solo così, io ci ho avuto un quarto d'ora, dopo lo spengo perché mi fanno male gli occhi quando ci sono più di mezz'ora, capito? Però adesso visto che ci vuole quell'aggeggio funziona bene. E allora me lo deve portare, me lo piazza almeno, sto tranquillo, ma almeno 10 minuti l'accendo e mi svago, capito? E cosa vuoi fare? Se no ci sono questi assettivi, lampado, boh, attimo, ma la chi non mai nessuno. Ma se il computer ciò che mai tende, cosa vuoi fare? Lo so. Gio Mario, sa cosa che. Io la devo ottenere, ce la devo ottenere la cosa, la connessione fissa, perché per quello che faccio io, quella del telefono non mi basta. Anche se ci sono limitati, è più lenta, invece quella di casa per il momento la tengo, poi quando non posso più la stacco e pazienza. Però a me serve per il lavoro che faccio io. Ehi, ma tu sei giovane, già certe cose le puoi fare, dai. Io no, io mi svagavo molto prima, ma come quando mi sentivo più perfetto, se avevo in campagna, facevo, anche se tutto il giorno, se non mi chiamavano a mangiare, non mangiavo nemmeno perché c'avevo da fare, me la facevo le cose, capito? Però va, poi si fa più nulla, cosa mi fa? A me le cose adesso me le sto facendo lunga, ma qualche cosetta così, leggera già la faccio ugualmente, però campagna, e cosa fai? non puoi fare più niente. E faccio la termicadera che da passata c'è un fatto con Lucca per voi, mi ho dato un vascone, poi perché c'era una perizza, l'abbiamo svoltato, poi abbiamo preso il cemento, abbiamo fatto la passata di cemento, quella a Bianone, così con la paletta americana, ho visto che ha tenuto bene, l'ho riempito ed è apposta, per dirti no, e io magari no, e capi parava a trezzare un vascone, oh, e invece è fatto, magari lo buco va a parare nel trinto, ma mi ha trovato ugualmente, e stava anche da cudretto me. Ah, ma non è affugato, no? da vera epoca, sicché non è che era acido, per cui era tranquillo, già respirava bene. però sembra così, quando la cosa è coperta c'è un buco stretto, non è che sia tanto, però a me mi faceva l'impressione quando scendevo io. Beh, ti credo. Va bene Luigi, sentiamo dai che mi distacco che va bene, dai. Sentiamo dopo eventualmente, ok Luigi? Via Giovanni, a dopo, ciao. Ok.